Queste presidenziali arrivano in un contesto difficile, limite e caotico, appunto, da una parte la gestione negligente, a usare un eufemismo, della pandemia da parte di Trump, che ha portato gli Stati Uniti a essere il paese col maggior numero di vittime al mondo, e dall'altra però anche una polarizzazione sociale e politica all'interno della popolazione americana fortissima, che abbiamo visto appunto addirittura con l'organizzazione di milizie armate bianche contro i manifestanti di Black Lives Matter nelle ultime settimane. Quindi c'è sicuramente un livello di divisione sociale e politico all'interno della popolazione che ha pochi precedenti, che sicuramente rende estremamente difficile l'avanzare delle elezioni. Uno scenario simile alla vigilia di una guerra civile? Questa è un po' una cosa che molti hanno citato. Ovviamente parlare di guerra civile, insomma, non mi sembra realistico a questo momento, però sicuramente c'è una disgregazione del tessuto sociale, una minore fiducia diffusa nella popolazione nei confronti delle istituzioni e della tenuta del sistema. Da una parte della popolazione, perché di fatto esclusa dai benefici di quel sistema, insomma, nelle piazze di Black Lives Matter e contro la violenza della polizia di questi mesi non c'è solo l'attacco giustissimo alla violenza della polizia, c'è anche il fatto che in certi quartieri, in certe città, la presenza violenta della polizia è l'unica presenza dello Stato che c'è, e invece ogni presenza in termini di welfare, in termini di servizi, in termini di sostegno è praticamente assenti. Perché avere fiducia in un sistema che non ti difende? Lo slogan di Trump delle precedenti elezioni parlava di un'America grande di nuovo. Ecco, questa America, insomma, non è tornata grande di nuovo. No, esatto. Normalmente è interessante parlare di elezioni di rinnovo di un presidente uscente con questo clima estremamente drammatico, perché normalmente un presidente che si ricandida punta sull'ottimismo, perché punta sul fatto che i 4 anni precedenti abbiano migliorato la situazione. Tutti ci ricordiamo il celebre spot per la rielezione di Reagan: "It's morning again in America", è di nuovo mattina in America. Ecco, questa non è la situazione in cui si ricandida Trump, e questo rende la rielezione di Trump, che normalmente, ripeto, negli ultimi decenni è stata quasi sempre scontata nel caso di un presidente uscente, in realtà ad oggi improbabile, anche se non impossibile. Ma per quanto riguarda il rivale, Biden rappresenta davvero un'alternativa? Biden rappresenta un'alternativa nel senso di non essere Trump, e il principale elemento della sua campagna elettorale, ciò che porterà buona parte degli elettori che lo sostengono a sostenerlo, è semplicemente il fatto di non essere Trump. Su tutto il resto ci sono moltissime perplessità. Chiaramente è una persona anziana, più anziana di Trump, è una persona che anche generazionalmente è diversa, no, dalle nuove ondate progressiste che avvengono negli Stati Uniti, che molto spesso è stato anche messo in discussione appunto per le sue prese di posizione passato rispetto ai temi razziali, ad esempio, ma non solo. È una persona ancorata a un certo consenso centrista, che di sicuro non propone risposte al radicalismo crescente all'interno della sinistra americana. Fondamentalmente Biden ha dalla sua una voglia di normalità diffusa che c'è negli Stati Uniti, l'idea in qualche modo di tornare a prima della crisi, a prima di Trump, a prima di tutte queste cose che non piacciono, che vengono viste tutti i giorni, quando Biden era appunto vicepresidente. Devo dire che questo sembra, da una parte, una tendenza assolutamente comprensibile, dall'altra ben poco razionale, nel senso che il mondo nel frattempo è cambiato, e pensare che un semplice ritorno al passato con Biden risolva i problemi non sembra al momento molto realistico. Quindi sì, sicuramente migliore di Trump, in grado di affrontare i tempi che abbiamo, già è più difficile. Dopo la rinuncia di Sanders alle primarie, qualche osservatore sottolinea che Biden sta conducendo una campagna elettorale con temi un po' più a sinistra rispetto a quelli che sarebbero i suoi classici. È anche la tua sensazione? Ma ovviamente Biden un po' risponde al clima che c'è, e quindi su alcune questioni ovviamente ha dovuto anche tener conto, insomma, dell'agenda di Sanders, e anche, ripeto, di un clima all'interno, anche non in componenti appunto socialiste come quelle di Sanders, ma anche liberal di sinistra, insomma, interno del suo partito, un clima sicuramente più progressista. Dall'altra parte ci sono comunque anche il grosso delle posizioni di Biden e della sua candidata vicepresidente Kamala Harris resta ben ancorata in realtà nel consenso centrista. Sui temi della sanità pubblica universale, del salario minimo e così via, non ha concesso molto, e anche sui temi razziali, certo, c'è stata in qualche modo la condanna di alcuni degli episodi di brutalità della polizia e così via, ma dall'altra parte c'è stata anche la presa di distanze costante rispetto ai movimenti, perché anche da parte repubblicana c'è molto la tendenza a associare Biden appunto ai movimenti, alla sinistra, un po' per allontanarlo dal voto moderato, e Biden sembra molto concentrato, diciamo, sulla conquista del voto centrista moderato, del repubblicano deluso, questa figura un po' mitologica che ancora non si è mai vista, ma che Biden scommette esista.